giorno alle 18. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. Musica che unisce. D'Agostino, mica noccioline.

Lasciasi di Rom, il nuovo videoclip Time Goes Round. In più, la rivista poster Pianeta M2O, con il gioco da tavolo M2O Kart. La nuova compilation di M2O è nei negozi di dischi e nelle edicole a 9,90€. Compila col doppio uno, Giotti, Vanelli, Francesco, Farfa, i due numeri uno, shake lady lady, muovi il tuo culo, Supalova, doppio uno, Supalova la compilation, hey, 2006, volume 11, e non è rap, è house, bello! Supalova 2006, due numeri uno, Giotti, Vanelli, Francesco, Farfa. Ciao! Come stai? C'è un canale televisivo dove tutto è musica. Dalle emozioni ai ricordi. Dalle persone ai personaggi. All Music. All is Music. Da oggi vedere All Music è più facile. È anche sul canale 128 di Sky. Sky. Scegli la notte invece che il giorno. Scegli calzini sbagliati. Scegli vestiti a caso. Scegli una ragazza da come cammina. Scegli le piante perché non parlano. Scegli di far convivere l'egoismo e l'amore. Scegli il tuo modo di essere. Scegli Alfa 147 Black Line. Carrozzeria bicolore con tetto nero. Cerchi in lega da 17 e assetto ribassato. E su tutta la gamma Alfa 147 fino al 31 luglio, finanziamento in 5 anni a tasso zero e supervalutazione dell'usato. TAEG 051. Penso io, ferma lì, un po' di pat, più tragica, sì, così, si faccia inghiottire dallo squalo, la gamba alla spot, per bravissima, foto grandiose. Solo da Media World dal 6 al 29 luglio, ci stai dentro alla grande, con le offerte su fotocamere digitali, videocamera, navigatori satellitari, videofonini, musica e tutto quello che ti serve per delle grandiose vacanze. Ai, ma che... Ah, lo squalo, aiuto! Media World, questa è la risposta. M2O. Musica allo stato puro. È un mondo difficile, so. Però M2O. Musica allo stato puro. Ti ripigli di sicuro. We'll be right back. tu sei uno che si abitua molto facilmente alle cose. E poi dopo... Dai, G. Ne sei schiavo. La puoi fare. Disposizione stabile della mente. Stai ascoltando la frequenza sbagliata. Ah, è cazzemma. Questo cammino è per chi non si vuole abituare a nulla, ma vuole scegliere continuamente di camminare sotto una luce non apparentemente luminosa, ma meravigliosamente splendente. Signore e signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Ecco qua, va. Me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Malasaña.